un'alimentazione sana ed equilibrata, specialmente nella fase della crescita, è fondamentale per ridurre l'insorgere di malattie cardiovascolari, obesità e diabete in età adulta. Questo in parte lo conosciamo, ne abbiamo parlato tante volte in trasmissione, ma c'è una novità: adottando abitudini alimentari corrette si ha anche la possibilità di ridurre l'impatto del proprio stile di vita sull'ambiente. E questo è il contenuto del nuovo studio del Barilla Center for Food and Nutrition, al cui centro sta proprio il modello della doppia piramide alimentare e ambientale. Una elaborazione del Barilla Center che mette in relazione il valore nutrizionale degli alimenti con il loro rispettivo impatto ambientale. Ne parliamo con il professor Claudio Maffeis, che è professore associato di pediatria all'Università di Verona. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Professore, abbiamo una missione importante: insegnare ai bambini che una dieta corretta gli aiuta a crescere bene, ma anche a mantenere sano l'ambiente in cui vivono. Insomma, chi ben comincia è a metà dell'opera. Certo, lo scopo principale della nutrizione è quello di garantire un accrescimento nei bambini, di mantenere in loro lo stato di salute non solamente nell'età evolutiva, ma mettere le basi perché questo stato di salute venga mantenuto al massimo per tutta la durata della vita e garantire un ottimo sviluppo neuropsicologico. Questi sono gli obiettivi della nutrizione. Questi obiettivi si ottengono cominciando fin dalle primissime età con una nutrizione corretta ed adeguata. Purtroppo i nostri bambini non mangiano in maniera corretta, o meglio, una parte dei nostri bambini, una parte piuttosto importante, non mangia in maniera corretta, tanto che già nell'età evolutiva abbiamo la presenza, come diceva lei, di alcuni disturbi legati alla nutrizione. Primo fra tutti il sovrappeso e l'obesità, con le sue conseguenze che sono delle livelli di pressione modicamente più elevati, dei livelli di grassi circolanti modicamente più elevati e dei valori di glicemia modicamente più elevati. Questi valori, questi livelli alterati nel tempo danno dei danni anche severi, fino alla comparsa delle malattie più gravi, quali il diabete, l'ipertensione e l'aterosclerosi. Pertanto la nutrizione può giocare un ruolo determinante nel prevenire tutti questi disturbi. Ecco quindi l'utilità per i bambini di assumere una dieta più ricca in alimenti validi dal punto di vista nutrizionale, quindi principalmente alimenti di origine vegetale che contengono minerali, vitamine, carboidrati, fibra e poi anche certamente lipidi e proteine. Questa alimentazione che ha una base sostanzialmente di carattere vegetale è l'alimentazione consigliata da tutte le linee guida nutrizionali delle istituzioni più importanti del mondo, anche nel nostro paese. Quindi ecco che un'alimentazione ripartita su alimenti principalmente di origine vegetale consente di ridurre al minimo il rischio legato ad esempio a una dieta eccessiva in calorie o in grassi saturi che tanti danni comporta per il metabolismo del bambino. Professore, ma la dieta vegetariana potrebbe essere un'indicazione? Ma certamente la dieta è importante che abbia un elevato contenuto di alimenti di origine vegetale. Ci sono delle dimostrazioni chiare al riguardo, quindi l'alimentazione basata sui vegetali presenta dei vantaggi indubbi nel metabolismo degli individui a tutte le età. Pertanto ecco, non dobbiamo dimenticare che una dieta va equilibrata, quindi va calcolata in maniera tale che non vi siano carenze oltre che eccessi e che quindi tutti gli alimenti vengano a essere presenti. L'importante è che la ripartizione fra gli alimenti segua dei dettami di equilibrio. Mi faccia un esempio, professore, poi passiamo all'ambiente. Ecco, l'esempio detto fatto, che la ripartizione degli alimenti nel corso della giornata dovrebbe essere per tutte le età in 5 momenti, cioè colazione, pranzo e cena e 2 spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio. questo per quel che riguarda la distribuzione nell'arco della giornata, perché anche questo è molto importante, non bisogna limitare ai due pasti principali gli apporti calorici, ma distribuirli equamente in maniera proporzionata nei vari pasti. Secondo, la composizione del pasto, deve privilegiare i carboidrati e abbiamo detto frutta e verdura come base dell'alimentazione, per portarsi poi ai latticini, al pesce, ai legumi, la carne in minor quantità e poi infine i dolci e i condimenti. Ecco, questa è la filosofia che sta alla base di questa piramide nutrizionale, che va bene per tutti i bambini. E anche per gli adulti. E certamente anche per gli adulti. Ma professore, mangiare sano fa bene anche all'ambiente. Noi vogliamo che i nostri figli possano vivere in un ambiente sano. Ci aiuta a capire, perché c'è una relazione molto stretta, e la vostra doppia piramide alimentare e ambientale lo dimostra, tra quello che mangiamo e la salute del pianeta? Ma certamente sì, vi sono delle evidenze, direi, molto importanti che sostengono la diversità di costi nella produzione di alimenti di origine vegetale rispetto agli alimenti carnei. È chiaro che il mantenimento di questi animali, di costi inerenti alla loro nutrizione, all'utilizzazione dell'acqua, ai costi di mantenimento dell'animale, all'eliminazione delle scorie, eccetera, rispetto a quello che è la coltivazione di alimenti di origine vegetale, chiaramente è nettamente al favore della seconda. Pertanto, con l'incremento della popolazione mondiale, pensiamo ad esempio alle popolazioni asiatiche che sono aumentate di numero in maniera sproporzionata in questi ultimi decenni, e quindi con il cambio dello stile di vita ad esempio in queste popolazioni, quindi con l'incremento del consumo di alimenti di origine animale, ha portato a uno squilibrio complessivo di quelli che erano precedentemente le regole di natura economica, che venivano a garantire un certo equilibrio fra richiesta e offerta, tanto che abbiamo ora, si cominciano a evidenziare delle carenze del reperimento di derrate alimentari, proprio perché vengono utilizzate per il mantenimento, per la nutrizione degli animali d'allevamento. Ecco che quindi abbiamo una quantità notevole di questi prodotti che vengono utilizzati non per l'alimentazione umana, ma giustamente per l'alimentazione di questi animali. E quindi il rendimento finale in termini di rapporto costo-caloria fra quello che è un prodotto di origine vegetale e quello che è un prodotto di origine animale è altamente favorevole nel primo caso rispetto al secondo. Professor Maffeis, siamo in estate e cambiano le abitudini anche a tavola, cresce la voglia di piatti freschi, questa potrebbe essere un'occasione per proporre con maggiore frequenza ai nostri bambini la frutta e la verdura, piatti soprattutto freddi. Pensiamo alla dieta dei nostri bambini, che spesso non amano però le verdure o preferiscono solo alcuni tipi di verdure. Ma questo è vero, è verissimo, purtroppo il bambino tende ad avere una dieta poco varia, e questa è una cosa importante che lei ha detto, ma d'altra parte è anche importante la pazienza che possono avere i genitori nell'avere una certa costanza nel ripresentare la verdura ai loro bambini. È stato stabilito da degli eleganti studi psicologici che hanno messo in luce come il prodotto, cioè l'alimento fornito e presentato al bambino affinché possa essere considerato rifiutato dal bambino, deve essere proposto a lui in momenti diversi almeno 10-15 volte. Quindi non è sufficiente che il bambino dica ma non ne ho voglia, così di questo alimento non mi va, ecco che non è sufficiente per cancellare la modalità di presentazione di questo alimento, ma deve essere reiterata per più e più volte. Certamente la presentazione della verdura deve essere fatta nella maniera tale che essa sia resa appetibile, partendo ovviamente dalle verdure che sono più gradite al bambino. Sfruttiamo anche i colori, giochiamo col bambino, presentiamo dei piatti colorati, facciamogli fare qualche gioco anche a lui nella preparazione dei piatti, coinvolgiamo nella preparazione degli alimenti, e questo facilita il loro consumo. E poi senza dubbio dobbiamo ricordare l'importanza dell'esempio dato dai genitori, quindi la consumo diretto da parte dei genitori di questi alimenti. È chiaro che se i genitori disdegnano il consumo delle verdure, è ben difficile che i loro figli le consumino. Professor Maffei, lei da piccolo mangiava le verdure? Abbastanza. Da grande tantissimo. Grazie professor Maffei per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata.